Rudolf, la renna dal naso rosso. Molto tempo fa, da qualche parte nel Polo Nord, viveva San Nicola. Beh, Babbo Natale. E vive ancora là, con la signora Natale, gli elfi e le renne. Babbo Natale, essendo Babbo Natale, era impegnato a preparare doni con l'aiuto dei suoi elfi. Ma questa volta il Natale sarebbe stato diverso. Babbo Natale stava per ricevere un regalo davvero speciale. In una fredda notte nacque un'adorabile piccola renna. Il suo nome era Rudolf. Ma questo cucciolo non era come le altre renne. Aveva un naso di color rosso acceso. Rudolf però non riusciva a capire perché fosse speciale. Hai visto, Rudolf? Quanto è strano il suo naso, così brillante e rosso come un pagliaccio. Ed è così grande. Nessuna renna ha un naso così tondo e grande e scintillante. Guarda com'è divertente. Tutte le renne prendevano in giro il naso di Rudolf, senza rendersi conto di far stare Rudolf molto male. Rudolf era sempre triste, perché era diverso e si sentiva escluso. Perché devo avere un naso così luminoso e rosso? Tutti mi prendono in giro, nessuno gioca con me, sono un buono a nulla. Ma Rudolf avrebbe scoperto molto presto che quel naso era in realtà un dono. Quella notte era proprio la vigilia di Natale. Babbo Natale stava facendo radunare le sue renne per volare in tutto il mondo. Gli elfi stavano lavorando sodo, alcuni stavano sgombrando la neve, altri stavano mettendo i doni nella sacca di Babbo Natale e controllando la lista dei bimbi buoni e dei bimbi birbanti. Oh, oh, oh! Forza tutti quanti! Non ci resta molto tempo prima di partire! Sì, sì, si stanno tutti preparando. E tu? Dov'è il tuo vestito? Ti sei pettinato la barba e i capelli? Io? Sì, stavo proprio per farlo. Non preoccuparti, non ci metterò molto. Mio caro marito, ti rimangono solo pochi minuti. E inoltre, ogni anno dobbiamo fare il vestito un po' più grande. Fu proprio allora che Peppermint Sticks, l'elfo più saggio di Babbo Natale, si precipitò verso di lui, apparendo molto preoccupato e ansioso. Babbo Natale, signora Natale, ho delle brutte notizie. Sembra che ci sia una fitta nebbia in tutto il mondo. Così densa che persino gli occhi delle nostre renne faranno fatica a vedere. Oh mio Dio, questo non va bene. Devo consegnare tutti questi regali stasera. Tutti i bambini del mondo li stanno aspettando. Cosa possiamo fare? Oi! Dobbiamo pensare a qualcosa. Non possiamo semplicemente stare qui seduti. Qualcuno sarà in grado di aiutare? Possiamo attaccare delle luci? No, le luci cadranno. Forse possiamo metterle ai giovani re di fronte. I loro occhi potrebbero essere in grado di vedere attraverso la nebbia. Negativo. Per quanto giovani siano, questa nebbia è troppo spessa perché qualcuno di loro possa vedere. Bene, allora hai un altro piano? Cosa ti viene in mente? Sì! Penso di aver trovato la soluzione. Ciao, amico! Rudolf, che piani hai per stasera? Spero tu sia libero! Niente di speciale, Babbo Natale! Come fai a sapere il mio nome? Conosco i nomi di tutte le mie renne! Ci sono Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder e Blitzen! Rudolf non poteva credere che Babbo Natale conoscesse tutti i nomi delle sue renne. Di nuovo? Va bene. Ci sono Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Dunder e Blixen. Che cosa stai facendo? Non c'è tempo per questo. Cosa ti è venuto in mente? Tranquilla, tesoro. Rudolf ti aiuterà stasera. Campione, guiderai tu la mia slitta stanotte? Rudolf fu sorpreso dall'offerta di Babbo Natale. Non se l'aspettava. Sembrava che le altre renne fossero scioccate. Così anche la signora Natale e Pepper. Ma Babbo Natale era sicuro del suo piano. Non penso di poterlo fare. Non ho esperienza. Sciocchezze! Sei perfetto! Abbiamo bisogno di te stasera. Vieni, Rudolf. Guida la strada. Prepariamolo, Pepper! Pepper e la signora Natale vestirono Rudolf come le altre renne e lo prepararono. Sei sicuro? Sì, mia cara. Ho una sensazione. Lui e il suo naso rosso acceso mi guideranno per sempre d'ora in poi. Tutti pronti per andare? Iha! Aspetta, aspetta, solo un minuto. La sicurezza prima di tutto. Su, Dasher, Dancer, Prancer e Vixen. Su, Comet, Cupid, Donner, Blitzen. E su, Rudolf! Verso le case e i camini! Corriamo, corriamo, corriamo tutti insieme! La slitta di Babbo Natale si mosse lentamente e poi decollò nel cielo notturno. Rudolf era nervoso, non era sicuro di cosa avrebbe fatto. Le altre renne lo stavano fissando. Si erano rese conto di quanto Rudolf fosse speciale e si sentirono in colpa per averlo preso tanto in giro. La notte si fece buia e la nebbia sempre più fitta. Rudolf e gli altri stavano lottando per vedere. Rudolf si girò verso Babbo Natale, che stava sorridendo. Ora, ragazzo mio, ora! La nebbia si fece ancora più fitta. Rudolf chiuse gli occhi e il suo naso divenne rosso vivo, più luminoso che mai. Illuminò la strada da seguire per Babbo Natale e le altre renne, che lodarono Rudolf con grande gioia. Con l'aiuto del naso rosso brillante di Rudolf e delle altre renne, naturalmente, Babbo Natale fu in grado di consegnare ogni regalo ad ogni bambino la notte di Natale. Pensavi di non farcela? Sei speciale, ragazzo! Saprai sempre guidare la mia slitta con il tuo brillante naso rosso! Tu sei il mio regalo di Natale! E andò proprio così! Rudolf avrebbe sempre guidato la slitta di Babbo Natale. Attraverso la notte, la nebbia o la neve, Rudolf sarà davanti per guidarli. Non è sorprendente? Rudolf si preoccupava del suo naso e di quanto fosse diverso. Alla fine della giornata era ciò che lo rendeva unico. Quindi la prossima volta, se guardi in cielo e vedi la slitta di Babbo Natale volare, vedi se riesci a vedere il naso brillante di Rudolf, perché sicuramente non verrà dimenticato.